Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis. Siamo circondati dalla matematica, non c'è tecnologia umana che non ci affondi le radici e non c'è problema o quasi che non abbia un suo côté matematico. Allora, stasera parliamo di Matesia, un progetto che nasce dalla collaborazione tra Moxof, spin-off del Politecnico di Milano specializzato in calcolo scientifico avanzato, e Yottacol, che è una startup incubata invece in Polyhub, che è l'incubatore gestito dalla fondazione sempre dello stesso Ateneo. Matesia è una piattaforma di crowdsourcing, quindi di raccolta anche di fondi, che permette a persone e aziende che hanno un problema da risolvere oppure la necessità di realizzare una soluzione innovativa di sottoporlo alla comunità dei matematici, mettendoli in competizione tra loro affinché appunto trovino una soluzione. Ne parliamo con Ottavio Crivaro, che è amministratore delegato di Moxof. Benvenuto Crivaro. Buonasera. Allora Crivaro, come funziona Matesia? Allora, Matesia è una piattaforma composta sostanzialmente da due anime. La prima è l'anima Projects, dove si realizza il crowdsourcing, come lei giustamente diceva, e la seconda è l'anima Community, dove invece la comunità delle persone registrate su Matesia possono condividere interessi, informazioni, abitudini e qualunque tipo di aggiornamento. Ma veniamo alla parte Projects, che credo è quella qualificante, certo, altrimenti sarebbe un sito sulla matematica. Assolutamente. Allora, la parte Projects sostanzialmente si esprime secondo i principi del crowdsourcing, ovvero quella modalità in base alla quale c'è qualcuno che ha un problema, lo descrive e spera che diversi portatori di soluzione lavorino in competizione tra di loro per fornire una soluzione sempre migliore. Nel nostro caso, coloro che hanno il problema sono aziende derivanti da qualunque settore industriale, che noi chiamiamo pitchers, dallo slang dello sport, dal baseball americano, ovvero coloro che lanciano le sfide. Lanciano la palla, diciamo. Assolutamente. Dall'altra parte c'è il popolo dei portatori di soluzioni, che nel nostro caso sono persone specializzate nelle applicazioni della matematica. Sono i cervelli, diciamo, in fuga o non in fuga, ma insomma sono lì a disposizione. Sì, tant'è che noi li abbiamo chiamati Brainies sulla piattaforma e quindi sono specialisti o nell'ambito della modellistica, della numerica, della statistica, che competono tra di loro per fornire le proprie soluzioni ai pitch. Ecco, ci puoi dire qualcosa di più sull'identikit di questi Brainies appunto? Quindi sono studenti di matematica, professionisti? C'è di tutto, ci sono ricercatori o anche professori universitari. Ci sono team, nel senso gruppi di ricerca accademici e non, ci sono anche specialisti o aziende specializzate che forniscono servizi o tool specifici e sviluppati con le competenze della matematica applicata, e ci sono anche studenti. Mi sembra di aver capito che non c'è una grande differenza, lo ha già detto in qualche modo prima, rispetto ai settori dai quali provengono invece i problemi, o invece no? Allora, noi diciamo non pensiamo che su Matesia ci sia una specificità settoriale, non pensiamo che ci siano settori diciamo per i quali Matesia possa funzionare di più o possa per i quali diciamo la matematica è più utile di altri, cioè, allora, sarebbe utile un po' a tutti, lei dice sostanzialmente. Assolutamente sì, diciamo che però ci possono essere settori che sono già un po' più abituati e pronti a vedere nella matematica uno strumento per riuscire a fare meglio innovazione. Ad esempio, mi viene da dire, nell'aerospaziale o certo, nell'automotive, ma anche nel settore stesso dell'energia o dell'oil and gas, si fa già ampio uso degli strumenti della matematica. Cioè il manager si alza la mattina e tra le cose che gli vengono in mente c'è un problema che dei matematici potrebbero aiutarci a risolvere, mentre questo magari in altri settori non succede. Ad esempio chi opera nel settore aerospaziale o magari delle competizioni sportive, se ha un problema di aerodinamica la prima cosa che fa è pensa a sviluppare un nuovo modello, certo, fluidostruttura. È un po' meno diciamo normale che invece magari un'azienda alimentare o un'azienda che opera nel manifatturiero possa immaginare che migliorare un prodotto, migliorare un processo ci si possa basare sull'utilizzo di strumenti di matematica, oppure addirittura che anche associazioni che operano nel settore no profit possano, certo, lavorare meglio utilizzando la matematica. Ecco, voi vi aspettate quindi che questo vostro progetto abbatta un po' di queste barriere o di questi neanche pregiudizi, qui si tratta semplicemente appunto di creare un po' di consapevolezza. Sì, il nostro augurio è veramente questo, che Matesia riesca in un certo senso a abbattere delle barriere che possono essere culturali o geografiche o di altro tipo. Noi pensiamo che davvero attraverso Matese magari sia più facile per chi ha sulla scrivania un problema formalizzarlo in termini matematici e proporlo a brainies veramente di tutto il mondo, che magari abbiano già affrontato un problema simile in un contesto diverso, e allo stesso tempo permette magari a brainies distanti geograficamente anche da tanti dai loro possibili clienti, certo, assolutamente, di entrarci in contatto. Grazie Ottavio Crivaro. Grazie a lei e buona serata. Ci fermiamo qui, appuntamento domani sera.